www.radio3pod.rai.it. It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce. La fabbrica di polli, la notte è sempre a metà del suo cammino. Cappa e Drago si raccontano i fatti propri. Stasera esco con una gallina carina che ho conosciuto da poco, un po' strabica. Ma no, ma di nuovo, ma sempre strabiche le becchi. Vedi, edizione dell'anno scorso. Vabbè, lo strabismo di Venere, no? Sì, o di Lucia Annunziata. Ma quale Lucia Annunziata? Ma vedi come sei sempre lì che mi rovini la festa, Lucia perché? Annunziata. Perché? Non ho capito questo. Se dico strabismo di Venere, sei contento della tua gallina strabica, se invece dico strabismo di Lucia Annunziata? Mi si smonta tutto. Come voi sapete, questo appuntamento è un appuntamento ormai canonico tra la RAI e il primo maggio. Il primo maggio, dico, nel suo complesso, tutte le forze che compongono poi questa celebrazione, se stessa ormai canonica nel nostro paese. La fabbrica di polli. E stasera, cappa, la gallina strabica la porto direttamente nel pagliericcio, senza il ristorante, quelle parti di... Linea dura. No, è che l'ammazzano tra mezz'ora. Ma intanto, nei disertati sotterranei della fabbrica di polli, dove l'aria è spessa come una bistecca alla fiorentina, avvengono cose che nessun cervello umano potrebbe riuscire a comprendere. Cose come le avventure de... La cavia da laboratorio! La cavia da laboratorio si chiama in realtà Cavia porcellus ed è un piccolo roditore originario dell'America del Sud. Usata inizialmente da Robert Koch e da altri batteriologi, la cavia è diventata un sinonimo di animale di laboratorio. Nel lessico comune, infatti, si indica per estensione come cavia un qualsiasi soggetto di esperimento. In ogni caso, nonostante questa comune accezione, oggi la cavia non è più molto usata in ricerca, per quanto resti un importante ingrediente dei riti orgiastici sadomasochisti preferiti da Richard Gere. La fabbrica di polli. Ma no, ma no. Ma pollo in sbattimento, ma cosa no. C'è di nuovo? Tutti i giorni così, Cosa c'è? Cosa c'è? Ve l'ho detto, no? Dei coccoletti brasiliani che devono venire qui in fabbrica a suonare. Sì. Allora, questi qua adesso sono già imbarcati su una nave là in Brasile. Già tutti belli nelle loro gabbiette, no? Ma quindi dovresti essere contento, no? No, perché la nave non parte. Ma perché? Non parte perché stanno ancora aspettando i documenti per i cocoretti. E devo darli io, Cosa? I documenti. E allora? È un casino per me, no? Ma cioè, in pratica stai bloccando una nave intera dal Brasile per via dei documenti dei tuoi cocoretti. Ma non è mica colpa mia, no? Questi sono extracomunitari. Ma lo so, sono brasiliani. Ho capito, è mica uno scherzo, quelli là hanno le malattie. E allora adesso non li voglio. Ma come hanno le malattie? No, ma cosa dici? E come no? Perché? Perché adesso devono fare la vaccinazione, no? Ah, vabbè, vaccinazione. E intanto devono farla. Poi bisogna vedere se la sopportano. Perché? E devono passare la notte. Come devono passare la notte? È pesante la vaccinazione. Ah, la vaccinazione è pesante, ho capito. Perché sì, o passano la notte e non se ne vanno. Vabbè, ho capito. Allora, poi? Se passano mezzo la notte? E poi devono fare la quarantena. La quarantena, tutti guarda balle lì. C'è tutto da profilarsi, no? Di nuovo la profilarsi. In questo caso forse sì. No, va bene, va bene. È giusto, no? Forse sì, non lo so. Quindi, tra i 40 giorni della quarantena e i 40 giorni di viaggio, questi qui alla fine il concerto lo fanno da morti, eh. Ma no, ma cosa dici? Ma guarda che i cocoriti non sono mica come i polli, sono longevi, certo. Sono della stessa famiglia dei pappagalli, campano 100 anni. E intanto io sono qui sbattimento, no? E se continua così, io non arrivo neanche a 45 di anni. Nel 44, quindi sì. Appunto, perché qui tutti i giorni, tutti i santi giorni, il capitano mi telefona e comincia a parlarmi in portoghese, il no? capitano della nave? Eh sì, e questo non mi lascia in pace. Mi chiama tutti i giorni a mezzanotte e comincia a parlarmi in portoghese e urla, alza la voce e io non capisco. Mi chiede documenti, procure, assunzioni di responsabilità, firme, camera di commercio. E qui è un inferno, eh. E io qui voglio morire. No, però dai, però una soluzione c'è e la conosci bene, vero? Dai, su, Polo, comincia con la P e finisce con la A. E ti rende? Attutito. Come? Attutito. Attutito. Ti piace essere attutito? Attutisciti. Attutisciti. Attutisciti. Attutisciti. Attutito. Attutito. Attutito. Attutito. Attutito. Paroxetina. Sì. Paroxetina. Paroxetina. Attutito. La vita è dura, ti fa paura. La mattina, paroxetina, inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina, paroxetina. Sì, però mi manca la televisione, tu non ne hai idea. No, mi mancano le belle serate davanti al mio raffinatissimo home theater. Ah, il tuo raffinatissimo home theater, però non migliorava certo la qualità della spazzatura che guardavi, la ma TV. Quale spazzatura, quale qualità? Io non guardavo mica la TV generalista. Ah, no, perché Lucia Annunziata è il tipico riferimento di uno che guarda solo la CNN. Ma non guardavo nemmeno la CNN, io ero esperto di telefilm. E Lucia Annunziata che telefilm fa? I telefilm, K, erano troppi e troppo lunghi. Ma non è vero. Come facevi ad avere il tempo di guardarli? O di lavoro facevi il critico televisivo o ciccia? Lo sai, Draco, la domenica era il giorno... Del signore. Ma, sì, anche del signore, ma soprattutto era il giorno dei telefilm. Tutta la famiglia si riuniva per vedere storie di morti ammazzati, sbudellamenti, poliziotti, medici, avvocati, criminali, vedove, lesbiche, Ma hai notato, K, che i telefilm non sono mai sugli intellettuali? Che ne so, si è mai vista una serie incentrata su un famoso storico, oppure un famoso teologo, un uomo di pensiero? Sì, magari uno che sta tutto il giorno in biblioteca, legge con la lente d'ingrandimento. Sì, è bello, no? Si potrebbero imparare tante cose. Ma no, ma vabbè, ma anche con IAR si imparavano tante nozioni mediche. Vabbè, però vedi che erano nozioni scientifiche. Non può esserci una fiction che avvicina il pubblico alla cultura umanistica, che ne so, tipo il Codice da Vinci. Al massimo, Drago, non so, posso pensare a una miniserie ambientata... Nel torbido mondo delle università. Con favori concessi a baroni bavosi, da laureande di provincia disposte a tutto, pur di avere quel posto da dottoranda in storia dell'articolo determinativo nello strogoto orientale. Io credo nello studio, professore. Non può rovinarmi la vita così. E invece sì, alla faccia di Anna. Anna Arendt. Che cosa succederà adesso? Anna Arendt troverà il modo di vendicarsi dei due polli umani che osano sbeffeggiarla a 32 anni dalla sua morte? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani, ancora una volta a mezzanotte e ancora una volta su Radio 3 per il prossimo moraleggiante allestimento del... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muore quasi mai. La fabbrica di polli, programma di K e Drago, prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.